laggiù nell'Arizona, terra di sogni e di chimere, se una chitarra suona, cantano mille capi nere, hanno la chioma bruna, hanno la febbre in cor. Chi va a cercare fortuna, vi troverà l'amor. A mezzanotte va la ronda del piacere, e nell'oscurità ognuno vuol godere, son baci di passione, l'amore non sa tacere, è questa la canzone di mille capi nere. Il bandolero stanco scende la sierra misteriosa, sul suo cavallo bianco spicca la vampa di una rosa, quel fior di primavera vuol dire bene l'età, e alla sua capinera egli lo porterà. E chi ritornerà lasciando le miniere, forse riporterà dell'oro in un foresiere, ma il cuore lascerà